Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di tre libri che riguardano il tema delle aziende, delle strategie aziendali, delle risorse umane delle aziende, di come muoversi all'interno delle imprese, di come conquistare anche la leadership. Tre libri che presenteremo uno per volta, ma intanto vi presento chi ha curato questi libri. Sergio Carbone, buonasera. Buonasera. Sergio Carbone, direttore generale di Project Land, è un esperto soprattutto sul fronte della formazione professionale delle risorse umane e dello sviluppo organizzativo. E Angelo Pasquarella, buonasera Pasquarella. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Angelo Pasquarella è amministratore delegato di Project Land, di Project Italia, e appunto una società che si occupa di formazione, si occupa di assistere le nuove imprese con caratteristiche innovative. Il primo libro di cui parliamo è Punto HR 2015. Peraltro è la terza edizione, diciamo che ormai è quasi diventato un annuario. Che cos'è Punto HR? Sergio Carbone. Punto HR, diciamo, nasce 3 anni fa con una sperimentazione che volevamo, diciamo, si concludesse proprio in quell'occasione. Sostanzialmente è una raccolta di saggi che viene realizzata a più mani, questi saggi vengono scritti da persone che a vario titolo si occupano di personale all'interno delle aziende, quindi direttore del personale, persone che si occupano di formazione, capi di academy, di aziende importanti. Coinvolge tra l'altro i contributi di aziende che appartengono a settori diversi, quindi c'è il parere dell'azienda industriale, c'è il saggio del capo del personale di una compagnia di assicurazione, di una banca e così via. Ecco, quindi dedicato alle risorse umane, allo sviluppo delle risorse umane, che cos'è cambiato negli ultimi anni? Cosa sta cambiando in questo settore, Sergio Carbone? Ma diciamo innanzitutto che sempre di più comincia a emergere un po' il tema della trasformazione, o meglio, comincia a diventare pressante e percepito il tema della trasformazione un po' del mondo del lavoro. Noi sostanzialmente stiamo assistendo al passaggio da una realtà economica basata prevalentemente su aspetti di natura industriale, ma non tanto da un punto di vista proprio di produzione di PIL, ma proprio come concezione stessa del lavoro, a una logica invece più orientata ai servizi, il che implica il fatto che alle persone viene chiesto un contributo completamente diverso dal passato, quindi si passa sostanzialmente da un lavoro più orientato ai compiti a un lavoro che invece richiede autonomia, che richiede capacità di risolvere problemi. Ovviamente tutte queste cose il più delle volte trovano spazio nella prassi organizzativa delle aziende, anche in maniera abbastanza concreta, forse trovano meno spazio ancora oggi, per esempio, nella contrattualistica del lavoro, che è sostanzialmente legato un po' a una visione abbastanza, diciamo, tradizionale. Esatto. Ecco, Angelo Pasquarella, volevo coinvolgere proprio ancora su questo fronte, sul fronte delle risorse umane, di come le aziende cercano e possono sviluppare le risorse umane al loro interno. Si può dire che col cambiamento anche tecnologico che c'è stato, c'è sempre di più la necessità di valorizzare le persone, non tanto la mansione in senso specifico, quanto gli obiettivi che una persona deve avere. È cambiato anche il modo di essere all'interno delle aziende. Angelo Pasquarella. Esatto, è proprio così. Cioè, in buona sostanza noi troviamo diciamo che è cambiato lo stesso concetto. Si dice lavorare per compiti, e questo era legato, diciamo così, a quei meccanismi di mansionari. Immaginiamo proprio il discorso del mansionario, delle attività che si dovevano svolgere, che l'operatore svolgeva, e questo invece viene un po' abbandonato. Chiaro che esistono ancora dei lavori per compiti, ma in gran parte anche lavoratori di non altissimo livello, cioè non manager, lavorano per risultati attesi, cioè sono investiti di una serie di problematiche che devono gestire in modo abbastanza originale, cioè confidando sulle proprie capacità e sulla propria professionalità. Quindi questo significa che il modello organizzativo, diciamo così, viene un po' meno e viene esaltata di più quella che è la componente proprio umana. Ecco, è significativo che il primo contributo, perché questo libro è fatto da una serie di contributi di esperti nel campo delle risorse umane, sia dedicato ai lavoratori senior. Si sta riscoprendo, Angelo Pasquarella, questa categoria di persone che non sono così semplicemente da rottamare. Ma secondo me questa sarà una necessità, drammaticamente, cioè noi dovremmo lavorare sui lavoratori senior, perché nei limiti in cui l'età media dei lavoratori aumenta, i lavoratori rimangono sul posto di lavoro per più tempo, e questi devono diventare una risorsa. Cioè paradossalmente noi dobbiamo stare a livello dell'innovazione che è collegata con i giovani, no? Col concetto di giovane, cioè chi innova il giovane nell'immaginario collettivo. E paradossalmente noi dovremmo fare in modo che siano proprio magari gli stessi più anziani a essere portatori loro stessi di innovazione. Quindi sarà una cosa molto importante. Tra l'altro questo scritto va anche nella direzione di aiutare anche le persone più anziane a mettersi, diciamo, al passo con gli aspetti tecnologici e con le mutate tecnologie. Ecco, questo sul fronte delle risorse umane. Dobbiamo parlare, abbiamo promesso, di altri due libri. Gli altri due libri sono stati curati da Angelo Pasquarella e Sergio Carbone. Sono libri di autori americani. Edgard Schein, L'arte di far domande, bisognerà leggerlo per capire poi se le domande giuste sono fatte anche in questo programma. E ultimo viene Il leader di Simon Sinek, che anche questi sono libri dedicati appunto alla gestione aziendale. Sergio Carbone, L'arte di far domande, qual è la valenza e la positività di questo libro? Beh, intanto bisogna dire che si tratta di un'ultima opera di un guru sotto questo profilo, perché Schein, se vogliamo, ha tracciato un po', è stato un precursore, colui il quale che poi si è occupato di più dell'organizzazione negli ultimi decenni, con dei contributi particolarmente importanti. E lui sostanzialmente si occupa di questo tema associando la capacità di ascolto anche alla capacità di interpretare il desiderio degli altri attraverso delle tecniche specifiche. Ecco, infatti il sottotitolo è Quando ascoltare è meglio che parlare. Forse dovremmo abituarci tutti, anche nella vita quotidiana, non solo nell'impresa, a cercare prima di formulare dei giudizi, a capire molto meglio la realtà in cui viviamo. Sì, sotto questo profilo è abbastanza in controtendenza, perché come giustamente dice lei, abbiamo perso la capacità di ascoltare il prossimo e siamo sempre concentrati su quello che dobbiamo dire noi, perdendo di vista un po' anche le caratteristiche del nostro interlocutore. Ecco, Angelo Pasquarella, Ultimo viene il leader, è il libro di Simon Sinek. Anche questo parla appunto della realtà delle imprese, ma con un titolo che mi sembra molto provocatorio. Perché Ultimo viene il leader? Perché proprio rispetto a quello che dicevamo prima, cioè quando l'attenzione, diciamo così, di chi ha responsabilità all'interno dell'impresa si sposta dal modello organizzativo, dalle macchine, insomma, dall'aspetto ingegneristico, dall'aspetto più meccanico, no, per far funzionare la fabbrica, all'aspetto delle persone, e quindi cambia completamente anche il ruolo del leader. E allora il leader deve rappresentare nell'immaginario, diciamo così, stando alla tesi naturalmente sostenuta da Sinek, ma insomma è anche abbastanza condivisibile questa cosa, deve diventare una sorta di riconosciuto capo agli occhi appunto dei propri sottoposti, con la conseguenza che in qualche modo appare un po' come l'ultimo a dover preoccuparsi di ottenere determinati benefici, non il titolare del beneficio. Lui cita per esempio i Marines, no? Dove in effetti gli ufficiali dei Marines sono quelli che mangiavano per tradizione sempre dopo la truppa. E quindi è un modo di dire: noi, se la truppa sopravvive al pasto, sopravviviamo anche noi, oppure di essere messi un po' in secondo piano, quasi uno spirito, una volta si diceva uno spirito di servizio, il leader, il capo deve servire gli altri più che comandare. Esatto, è proprio questa seconda componente, perché se io ho bisogno di coinvolgere gli altri, perché le altre persone devono metterci del proprio, devono metterci testa, devono metterci volontà, iniziativa, perché il lavoro non è più svolto attraverso l'automatismo di un processo organizzativo rigido, ma attraverso la componente volontaristica, no? Il coinvolgimento delle persone. È evidente che io riesco a coinvolgere di più queste persone se vedono in me, no? Non tanto il comandante, ma quanto piuttosto il servitore. Ecco, indubbiamente che questa è una formula direi forse un po' antica, non c'è bisogno di nuove tecnologie, non c'è bisogno di approcci moderni, di approcci sofisticati per capire che il leader deve essere al servizio dell'impresa nella sua complessità. E qui forse si può ricongiungere il discorso che abbiamo fatto, partendo dalle risorse umane, partendo dalla leadership e arrivando poi a una gestione in cui le persone possono diventare ancora e sempre di più protagoniste nella realtà operativa, nella realtà aziendale, ma anche nella realtà sociale. Possiamo concludere così, Sergio Carbone? Direi proprio di sì. Noi negli ultimi anni, se c'è una cosa che è diventata abbastanza evidente, è sostanzialmente un passaggio dall'organizzazione intesa come sistema gerarchizzato di procedure e attività a un'azienda che si connota sempre, si tende a identificarsi sempre più con l'apporto della risorsa umana. È un sistema economico che quindi pone in evidenza l'apporto e la capacità dei singoli di concorrere al successo dell'azienda come non era successo in passato. Grazie a Sergio Carbone, anche perché in una prospettiva appunto costruttiva si può guardare un po' con ottimismo anche alla realtà italiana, che ha qualcosa da imparare dagli esempi americani, come viene da questi libri, ma indubbiamente anche qualcosa da insegnare e di cui tutti noi dobbiamo fare tesoro. Grazie a Sergio Carbone e Angelo Pasquarella. Vi ricordo i libri di cui abbiamo parlato questa sera, sono Punto HR 2015, edito da Guerini Next, sono 245 pagine per 23 euro. Sempre di Guerini Next come editore è L'arte di far domande di Edgar Schein, sono 138 pagine per 16 euro, mentre da Franco Angeli, edito di Simon Sinek, ultimo viene Il leader, perché alcuni team sono coesi e altri no, un libro che parla della realtà aziendale e di come i leader possono muoversi all'interno della realtà aziendale. Grazie a Peter Bescapè in regia, Luca Cremonese in redazione, grazie a quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo. We'll be right back.